Mamma mia! Super regia oggi a Radio Contado. Veramente, non avrei mai, mai, mai, mai pensato di trovarmi. Cioè, Pamela alla regia. Incredibile. Sentirete strafalcioni. Un inizio col botto per questa puntata 153. Ebbene sì, un altro venerdì in compagnia di Radio Contado qui su Radio Wombat, venerdì 22 marcio. Proprio marcio. E stranamente c'è il sole, incredibile. 15:45, sì, splende forte, che si dice da queste parti, Greba, no? Ma che si dice? Stiamo attendendo che i nostri orti asciughino da tutta l'acqua e hanno preso in queste ripetute piogge, e quindi abbiamo molto tempo da dedicare a queste bellissime puntate radio, che sono densissime. E speriamo di farvi cosa gradita, infatti. Sì. Io non ho fatto assolutamente niente oggi, però la redazione ha lavorato sodissimo. Esatto, per una puntata tutta incentrata sulle città, le nostre amatissime città, oserei dire. Ah sì. In realtà inizieremo con un'intervista che faremo a Ruggero e parleremo insieme delle grandi navi, parleremo dei ticket alla città di Venezia, poi passeremo invece a parlare di Firenze e parleremo del corteo che ci sarà domani 23 marzo e poi concluderemo con un'intervista speciale che abbiamo registrato ieri al muralista Nemos. Quindi insomma una super puntatona ricchissima, densissima, però volevamo iniziare con una piccola parola chiave che può starci bene in questa puntata. Certo. Io partirei subito appunto con gli spiegoni, giusto per non fraintenderci e dare a tutti gli stessi significati e le stesse parole, e spiegando quindi che cosa significa gentrificazione. Questa è Radio Contado, radiocontado@insiberia.net, radiowombat.net, ale ale. Il termine gentrification è stato coniato dalla sociologa Ruth Glass nel 1964. Deriva da gentry, parola utilizzata per definire la piccola nobiltà di campagna o, per farla più semplice, la borghesizzazione. La gentrificazione fa riferimento appunto all'imborghesimento dei quartieri più poveri, aree della città prima destinate alle classi sociali più basse, che finiscono per attirare l'attenzione di quelle più benestanti. Il valore dei quartieri aumenta in primis dal punto di vista immobiliare. Quartieri storici e popolari subiscono una trasformazione e una ristrutturazione che porta gli abitanti originari a cercare soluzioni più economiche altrove. Cambia il volto del quartiere, così come cambia il tessuto sociale che lo compone. Il fenomeno è antico, ma questa parola è entrata nel nostro vocabolario soltanto nel 2014. Prendiamo l'aeroplano, Treviso, Marrakesh. L'Europa sembra un sogno, vista dal Maghreb. Mi son trovato ad essere scugnizzo nella camp, senza alcuna via d'uscita. Sparo rime, rime, seguo il flow, flow, flow. Il gangsta reale sta solo nel barrio. Facciati in coda al treno, facciate nel metro. Sarà vendetta vera, in base a calibro. La dolce vita violenta, la sento dentro la testa. La dolce vita violenta, mi scoppia dentro la testa. La dolce vita violenta, la sento dentro la testa. La dolce vita violenta, mi scoppia dentro la testa. La dolce vita violenta, la sento dentro la testa. La dolce vita violenta, mi scoppia la testa. La dolce vita violenta, la sento dentro la testa. La dolce vita registrati e controllati in database, sempre nella lista del locale Orazio K. Solo sicurezza, zero libertà, sogno tanta felicità. Mi muovo dentro al Matrix, volo nel Fight Club. La polizia non spara, se la faccio tutte. Andiamo ancora a tiro, ecco le pistole, fuori dalle galere. La dolce vita violenta, la sento dentro la testa. La ed eccoci tornati. E diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi. Ruggero, sei in linea? Ci senti? Sì, vi sento. Ciao a tutte e tutti. Ciao Ruggero, abbiamo scelto una buona colonna sonora? Sì, sì. Bene, buona. Bene, bene. Allora, ti abbiamo invitato a questa nostra trasmissione sulla gentrificazione e questo un po' sguardo sulla nostra Firenze che ha tanto in comune con Venezia. Allora, tu Ruggero fai parte del comitato No Grandi Navi e quindi hai portato avanti tutta questa lotta per espellere dalla città, dal centro storico le grandi navi da crociera e questa è apparentemente ha avuto un primo capitolo apparentemente vittorioso, ecco, da parte di questo comitato. Vuoi raccontarci tu la tua versione? Sì. E come mai allora questo comitato No Grandi Navi continua a esistere? Ma allora, sì, c'è stato un primo capitolo che è, a nostro modo di vedere, in realtà vittorioso, nel senso che siamo riusciti dopo 10 anni di lotte, di manifestazioni, che poi si sono in differenti modi, noi abbiamo fatto da raccolte firme a referendum autogestiti popolari fino a, come dire, bloccare le navi usando i nostri barchini, anche arrivando allo scontro con le forze dell'ordine. Insomma, abbiamo messo in campo tutte le possibili strade per bloccare queste navi e siamo arrivati a un punto importante, a una cesura storica per questa città, nel senso che dopo una manifestazione particolarmente importante, 10.000 persone che sfidano il divieto di arrivare in piazza San Marco dato dal prefetto dell'epoca Zappalorto, lì sotto la pressione delle mobilitazioni di un incidente gravissimo che era accaduto qualche settimana prima, firma un decreto che determina l'espulsione delle navi quantomeno dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, dando indicazione di iniziare a progettare un porto fuori dalla laguna. Per noi questa è una vittoria, chiaro, poi le vittorie ed è una vittoria perché quella legge l'ha scritta Draghi, ma è come se l'avessimo scritta noi, in qualche modo è stato forzato da tutto quello che è successo, e adotta proprio una frase storica del comitato, perché le navi devono stare fuori dalla laguna. Chiaramente nessuna vittoria, come nulla nella storia, è mai scritto una volta per sempre su pietra. Nulla è mai, nulla di quello che accade rimane eterno e rimane sempre uguale a se stesso, per cui chiaramente i grandi interessi che ci sono dietro le compagnie crocieristiche, ovviamente gli interessi dell'autorità portuale, dopo qualche anno hanno ritirato fuori la questione delle navi da crociera. L'idea che hanno ora è quella di scavare dei canali da Malamocco, che è una delle bocche di porto che dal mare porta alla laguna, fino a Marghera, e portare le navi più grandi, quelle di ultima generazione, quelle che a Venezia non passavano neanche prima, neanche prima del decreto Draghi, per capirsi. Sono dei bisonti, no? Sono dei bisonti enormi. Parliamo di migliaia di tonnellate di bisonti, che tra l'altro io la faccio breve, ma insomma il discorso sarebbe lungo, attraversano una zona come quella dell'industria di Marghera, che è una zona altamente pericolosa, altro che Chernobyl. Cioè, se una nave, come è già successo, no? Sbanda, e anziché andare addosso a delle banchine di cemento dove non c'è nulla, come è successo qualche anno fa, andasse addosso all'area dell'ex chimica di Porto Marghera, cioè non lo so, peggio di Chernobyl, ma questo è solo uno dei problemi. L'altro problema, appunto, è che per farle passare lì servirebbe scavare dei canali, in particolare, appunto, bisognerebbe allargare il canale Malamocco-Marghera, che attualmente non è abbastanza grande per far passare tutte queste navi, e in più vorrebbero scavare anche poi da Marghera un altro canale, che attualmente di fatto non esiste, che è il Vittorio Emanuele, per portare poi le navi più piccole dentro la marittima, che è il vecchio porto di qualche anno fa. Questi due scavi determinerebbero la fine della laguna. Aprire questi due canali vorrebbe dire sostituire, come dire, come se al posto di una piccola strada di campagna uno costruisse un'autostrada, no? Si parla di veramente allargarli di parecchio, ecco, nel caso di Vittorio Emanuele, appunto, farlo da zero. Questo vorrebbe dire che se adesso entra una determinata poca quantità di acqua nel ricambio che c'è fra laguna e mare, dopo questi scavi ne entrerebbe molta di più. Quindi praticamente vorrebbe dire trasformare la laguna in un braccio di mare, e se la laguna diventa un braccio di mare, ovviamente non è più laguna e quindi muore, e quindi di conseguenza Venezia muore, perché Venezia esiste solo se esiste la sua laguna. Certo, chiarissimo. Diciamo, ecco, noi continuiamo. Ci sono più minacce di morte su Venezia che non lo so. No, sì, non vorrei fare nomi, però insomma direi che è molto, molto quotata, come città moribonda. L'ultimo colpo glielo possono dare in tantissimi. Comunque, ecco il motivo per cui quindi voi adesso come comitato di nuovo avete ripreso la vostra battaglia. Cosa vi aspetta, che cosa c'è di dosso in questo periodo, cosa bolle in pentola? Certo, noi assolutamente abbiamo ripreso la nostra, che poi in qualche modo non sarà mai conclusa, adesso si riaccende definitivamente. Il 6 aprile faremo una grande assemblea pubblica in una sala molto importante per la nostra città, che è Sala San Leonardo, nella quale presenteremo anche una settimana di mobilitazioni in opera di navi, che partiranno il 14 di aprile per finire il 20. Dal 14 al 19 i magazzini del Sale, che è uno spazio artistico, saranno presenti diversi artisti che collaborano tra l'altro con la Biennale, ma appunto sono artisti socialmente e politicamente impegnati, soprattutto appunto sui temi di salvaguardia ambientale. Insieme a loro costruiremo materiali per questa manifestazione, prepareremo questa manifestazione, che poi appunto ci sarà il 20 di aprile. Partiremo dalla fondamenta delle zattere, che è sempre stata la fondamenta, insomma, dove abbiamo contestato il passaggio delle navi quando appunto passavano per il canale della Giudecca, e da lì partirà un grande corteo acqueo, appunto con queste grafiche realizzate dagli artisti della Biennale, che andrà a Marghera. Puntiamo a disturbare una nave che passerà quel pomeriggio, e poi ci sarà anche una sorpresa che non possiamo ancora svelare, che sveleremo certo. Il giorno dell'assemblea, per cui insomma ci... E che ci... sono le nostre preferite, no? Le sorprese, esatto, dei movimenti, esatto, quelle che ci piacciono di più. Bello il sì. corteo acqueo, corteo lo vogliamo acqueo. Anche sì. noi sull'Arno a Firenze. E infatti cerchiamo di trovare un collegamento con la nostra di città, no? Che sta perdendo sempre più popolazione e luoghi di aggregazione. E forse appunto vale la pena fare un appunto su cosa sta accadendo a Venezia, che possiamo considerare una sorella maggiore in questo, su questo tema, e quindi vedere la questione ticket. Adesso da qui a certo. poco si entrerà in città soltanto se si pagherà un ticket. La prima domanda è: chi lo dovrebbe pagare questo ticket? Quali sono i turisti a cui è rivolta, i turisti o comunque i viandanti, le persone in transito che girano per i luoghi e quindi anche per Venezia? Chi si troverà a pagare questo ticket? Raccontaci un po'. Sì, no, la questione del ticket ci sta particolarmente a cuore, perché poi appunto il comitato, essendo un comitato più che decennale, è poi nel corso degli anni diventato, come dire, la grande casa delle lotte cittadine. Chi è sceso per le strade della nostra città sotto la bandiera del comitato non è mai sceso solo per la questione navi. Le navi sono la punta dell'iceberg di una città che noi vorremmo diversa, quindi in qualche modo contestare le navi ha sempre significato per tutti contestare un certo modello di città, di cui il problema della turistificazione, ovviamente, che è strettamente connesso alle navi. Le navi portavano 1,5 milioni di turisti l'anno in più, quindi ecco, capite che ovviamente le cose sono collegate. Quindi ovviamente la questione del ticket l'abbiamo sempre affrontata. Chi dovrebbe pagare questo ticket? In realtà c'è ancora un po' di confusione sotto il cielo. Fondamentalmente chi viene da fuori del Veneto e non ha parentele o specifici motivi, no? Per dire sono esentati, da quello che sembra saranno esentate le persone che si recano a manifestazioni sportive. Ma non a manifestazioni, punto. Quelle che si recano a manifestazioni, punto, no. No, no, esatto. Infatti, solo i veneti puri. Esatto, provocatoriamente chiederemo di concedere l'esenzione anche a chi viene a manifestare contro le navi. No, chiaramente, poi appunto ecco, anche questa è un po' la misura paradossale, no? Nel senso, noi ovviamente non siamo d'accordo con un'idea di città chiusa, con un'idea di città per cui tu devi pagare come se fosse uno zoo e come se noi fossimo degli animaletti ammaestrati che fanno da contorno. Però se uno ci crede fino in fondo, allora quantomeno questo ticket fallo pagare a tutti, no? E invece in realtà, a conti fatti, sembra, almeno così i primi dati dicono, che alla fine lo pagherebbe una persona ogni 10. Quindi fondamentalmente il comune, cioè, non so come dire, inizialmente sembra che neanche, poi immaginiamo che piano piano lo estenderanno sempre di più, però ad ogni fatto fanno questa cosa per farlo pagare a una persona, un turista ogni 10. Quindi vuol dire che è proprio, come dire, scusa, al di là della cosa, Ruggero, in sé... ti fermo, ma perché gli altri 9 lo avranno già pagato, incluso dentro alla loro tassa di soggiorno? Cioè, come mai 1 su 10? Perché gli altri 9 riescono a sfuggire il controllo, o perché gli altri 9 lo pagano già in altre forme? Perché degli altri 9 alcuni lo pagano già in altre forme e gli altri sono fondamentalmente esentati per le varie ragioni di qui sopra. Perché per esempio, se uno viene in città, il ticket è orario, quindi intanto va a giorni, no? Ad esempio per i primi giorni in cui sarà applicato sarà dal 25 aprile al 2 maggio, se non sbaglio, quindi intanto lo testano per questo primo ponte, no? Non è fisso, non è sempre, è solo nei periodi più caldi dal punto di vista dei flussi, no? E però è anche orario, cioè se uno entra in città dopo le 17 o le 16 paga di più. Non lo paga. Quindi se, cioè, uno la viene movida dalle va bene. Esatto, esattamente, perché non si va a danneggiare quella movida che poi non è solo veneziana, esatto, che viene anche dal resto della regione. Per cui a conti fatti un sacco di gente alla fine sarà esentata, quindi è proprio, come dire, è una questione reale ma anche simbolica, no? Divisione di città, cioè tutta sta storia di fatto per cominciare a imprimere a questa città una visione di città chiusa, di una città controllata, perché legato al tema del ticket c'è anche tutta una questione di controllo, no? Di mappatura dei nostri dati, eccetera. Quindi insomma è proprio, al di là dei tecnicismi in sé, c'è proprio una visione, ecco, distorta di città che loro stanno iniziando a introdurre e che noi anche in questo caso contesteremo, abbiamo già contestato. Ho capito. Bene, se, vedo che qua ci sono già delle affinità elettive e territoriali. Grebana, volevi fare una domanda, chiedere qualcosa a Ruggero? Hai già capito tutto? Ho già capito tutto. Qua ci è chiarissimo il tuo discorso, Ruggero. Prepariamo le barche anche noi a Firenze. Volentieri, volentieri. Noi vi chiederemo supporto logistico. Ospitiamo anche in laguna. Bene, Ruggero, allora per il momento ti ringrazio, intanto riteniamo questa una prima puntata perché appunto vogliamo sapere come se la prosegue. Poi, siccome, assolutamente. Ecco, siccome tu hai dei problemi di orario, non noi, tu, allora io direi che possiamo per il momento concludere. Sì, e ovviamente se poi avrai anche te aggiornamenti e vuoi insomma spargere un po' di voce, sappi che noi... insomma ti manderemo volentieri in onda se volete dirci qualcosa, insomma usateci pure come strumento di diffusione. Volentieri, volentieri, anche perché per la giornata del 25 aprile, che appunto sarà il primo giorno di Ticket, ci sono un po' di, c'è un po' di fermento ecco in città, e anche insieme ad altre realtà cittadine stiamo preparando una bella giornata di contestazione della laguna. Esattamente, ci liberiamo dal ticket e inviteremo alla disobbedienza, insomma ci sarà un evento pubblico anche il 25, per cui sarà un mese caldo per noi aprile, quindi ci sentiamo volentieri. Bene, grazie. Bene. Ancora Ruggero, grazie. Allora grazie a microfoni voi. Aperti, e sai che Piazza Tasso sicuramente ha orecchie per te. Grazie, grazie mille. Ciao Ruggero. Ciao, a presto. Interessante questa intervista, grazie Pam del contatto. Sì, sempre notizie felici, come sì, sempre davvero. Trasmettiamo noi da Radio Contado, il poi, mondo che vorremmo è sempre più vicino. Poi mi sarebbe piaciuto anche rompere gli stereotipi e finire la chiamata con un veneziano senza aver detto neanche una volta disobbedire, ma va bene. Ma ci sta, ci sta. Così. Direi che adesso ci sta anche una bella canzoncina. Sì, sì, sì, però prima facciamo un saluto alla nostra grande dama che è a casa. Purtroppo malata e ci Madonna. Ascolta. Ovviamente ascoltatrice numero uno secondo della me, puntata. Secondo me è stata lei a scriverci sul pad, grande Pam in regia. Baci da Barberino. Che bello, grazie. Daba. Vuoi che parliamo tutti così? E come sempre dedichiamo questa canzone al nostro pastore preferito, che sappiamo non gli piacerà questa canzone, ma noi gliela dedichiamo apposta, proprio per lui. Ah, è quella? È da fermare. Ti loviamo anche noi, dama. Music is the weapon. Music is the thing of the future. Music is the weapon of the future. Up in the five-star telly saying who might rhymes. Cioè, stupore dalla regia, stupore. Cioè, siamo stupiti da queste veramente. Oh, classe registica. Cioè, musica, tappetini, rap. Cioè, ha preso il sopravvento. Quando la tecnica prende il sopravvento sul tecnico. Esatto, sono stupita. Udite. Basita, cioè, sono sconvolta. Però ho perso completamente cognizione di quello che stiamo facendo. No, ci sono. Vince la tecnica o il tecnico? Esatto, tecnico. Allora, no, per tornare al punto, se ci riesco dopo questo stupore, direi che noi, trasmissione ormai acculturata e comunque, insomma, seria, quale siamo, ci ricolleghiamo, abbiamo parlato di Venezia. Venezia è una laguna e io vi volevo fare una piccola letturina tratta dalla Macchina del Vento, perché si parla invece, passiamo dalla laguna a un'isola, perché la Macchina del Vento è ambientata a Ventotene. Vuminguno. Di Vuminguno. E quindi niente, vi facevo una piccola lettura perché vi leggo proprio un piccolo pezzettino, perché c'è una bella metafora della città vista come un'isola, quindi ve la leggerò. Allora, non erano così anche le nostre città? Anche la più maestosa delle urbi, anche le metropoli e capitamundi della nostra magniloquente civiltà erano in fondo isole che attendevano piroscafi. La città non produceva il proprio cibo né le materie prime. Che avrebbero fatto i suoi abitanti senza i bastimenti, treni e autocarri che ogni giorno varcavano i confini per portare farina da grano coltivato altrove, riso coltivato altrove, olio da olive o girasoli coltivati altrove, verdure e frutta raccolte altrove, carne di bestie allevate altrove, pesce pescato altrove, latte e latticini da mucche, pecore, capre nutrite e munte altrove, uova di galline che le avevano deposte altrove, stoffe e filati da piante o animali tosati altrove, legno da boschi che crescevano altrove, carbone e metalli da miniere scavate altrove, e senza le cisterne che portavano derivati di petrolio sgorgato da pozzi lontani, i tubi che portavano gas estratto in giacimenti lontani, i fili che portavano energia elettrica ottenuta dall'acqua di cascate lontane. Ogni città era mantenuta dal mondo là fuori, allacciata alla vita, al bios, come un paziente in flebocrisi. E tutta questa letturina vuole essere, cioè mi sento un po' il gruppo spalla di un personaggio importante, perché ora manderemo subito una canzone del nostro, che è veramente bellissima, cioè, no? E quindi ho fatto un po' il gruppo spalla di Barbero e ora capirete perché mi sento un po' così, un gruppo spalla. Questa gente che si comincia cominciano a chiamare i ciò. In piazza cominciano ad arrivare gli operai, i lavoranti, i battilana, come dicono loro. Tutta questa gente arrivata in piazza a un certo punto si accorge di essere maggioranza. La marea degli operai comincia a sciamare per tutta la città e cominciano a dare l'assalto alle case dei traditori. E chi sono i traditori? Sono quei popolani grassi che sono diventati troppo grassi, dei grossi proprietari di industrie e di aziende, dei giudici, dei giuristi, che sono stufi di questo governo largo. La gente lo sa, li conoscono per nome, Messer Lapo da Castiglionchio, giudice. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Andiamo a bruciargli la casa. Degli strozzi, dei pazzi, i cittadini grossi. Andiamo a bruciargli la casa. Tutte famiglie, sì, di popolo in teoria, ma in realtà traditori. Il furore dilaga in città. Dove si va? Alle stinche, alla prigione. Si rompe la prigione e si liberano i carcerati. Andiamo a bruciargli la casa. Che vuol dire chiaramente, secondo noi il governo è corrotto e traditore, la giustizia è traditrice. Andiamo a bruciargli la casa. Ci dà l'assalto ai conventi. Dai francescani a Santa Croce, dai domenicani a Santa Maria Novella, perché se succede il tumulto, i conventi magari verranno risparmiati. Stavolta non vengono risparmiati. Il furore dilaga in città. Furore dilaga. Sbarrano le porte, di notte si fa la guardia dappertutto. I cittadini grossi, traditori. Si va avanti così per giorni. La città è paralizzata. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Eccoci in diretta. Rieccoci, siamo già qui in linea con invece Francesco del CPA di Firenze Sud. Ci senti? Sì. Buonasera a tutti e a tutti. Ciao. Allora, noi abbiamo parlato, appena abbiamo finito di parlare di Venezia, del no grandi navi, dei ticket alla città, e volevamo passare invece, diciamo, tristemente a Firenze. E quindi in realtà volevamo ripercorrere con te un po' le tappe che ci sono state, dalla tragedia c'è stata a un cantiere dell'Esselunga in via Mariti, che ha causato poi la morte di 5 operai per la caduta di una trave di cemento. Diciamo, a seguito di questo fatto poi sono state chiamate varie assemblee pubbliche. Se ci vuoi un po' raccontare come si è creata poi tutta la situazione post, diciamo, avvenimento. Sicuramente. Allora, iniziamo dal fatto che non è stata una tragedia, ma è stata un omicidio sul lavoro, una strage, perché il fatalismo... So bene che non è una cosa vostra, ecco, nel senso che è stato un uso della parola diverso da quello che sto dicendo, ma siccome viene usata come parola in questo senso, in questo modo, noi con l'assemblea 16 febbraio vogliamo dire chiaramente che le morti sul lavoro ci hanno dei responsabili. Come si sono svolte le cose e raccontando come si sono svolte si torna anche ai responsabili, chiaramente. Niente, quel maledetto 16 febbraio, sull'accelerazione dei tempi per non cadere in penali che poi, no, chiaramente nel sistema degli appalti diventa tutto un meccanismo per cui se non consegni in tempo cadi in penali, la ditta si rifà sulla ditta sotto, chiaramente tutto a scarico verso il basso sui lavoratori e sulla sicurezza dei lavoratori. Certo. Cosa è successo? È successo che niente, appunto, hanno fatto una gettata di cemento al piano superiore su cui poggiava il trave di cemento armato e poi crollato, l'hanno fatta troppo presto e nonostante gli avvertimenti degli operai hanno accelerato i tempi, hanno spinto sull'acceleratore e questo trave ha ceduto. Alle dimostranze precedenti all'accaduto degli operai, di tutta risposta è stato detto: i tempi sono questi, il lavoro è questo, se non vi sta bene quello è la porta. e poi è successo quello che è successo. Subito dopo c'è stata una situazione che si è sostanzialmente autodeterminata, che ha visto la presenza in piazza di tanti solidali e solidari, che sulla storia di quel cantiere nato sulle macerie dell'ex panificio militare ha rivisto in piazza non solo gli abitanti del quartiere, ma anche i comitati che già qualche anno fa si erano mossi perché non partisse l'ennesima speculazione edilizia, ma perché al posto dell'ex panificio militare fosse, come chiedevano i comitati all'epoca della svendita del terreno pubblico, fosse fatto un parco pubblico, appunto. Quindi diciamo, ecco, nel senso, quella presenza in piazza ha dato vita all'assemblea 16 febbraio e ha dato vita al febbraio che subito e in maniera naturale ha avuto facile gli è venuto naturale di mettere sul campo questi due binari, cioè basta ai morti sul lavoro, indicando le responsabilità che, se volete, approfondiamo anche un pochino, e dall'altra però anche la rivendicazione del quartiere rispetto a quello che vorrebbero che fosse fatto al posto del centro commerciale di Estelunga che stanno costruendo, cioè un parco pubblico dedicato ai 5 morti sul lavoro. Ok, quindi sì, una parte propositiva comunque di un parco, esatto, al posto dell'ennesimo supermercato. Ok, ma ci vuoi parlare un attimo allora di quello che accennavi, le responsabilità che ci sono state? Assolutamente. Allora, come dicevo, noi domani pomeriggio scendiamo in piazza dalle 15:30 all'Estelunga di Novoli e lo facciamo andando a denunciare le responsabilità di quello che è accaduto. Le responsabilità sono sicuramente di chi ha direttamente sottovalutato la questione tempistiche e chi effettivamente in questa sottovalutazione ha determinato il crollo del trave, ma c'è qualcosa a monte, perché non è che in via Marite è successo qualcosa di diverso da quello che succede negli altri cantieri o in tanti altri posti di lavoro. E allora probabilmente merita analizzare un attimino più a fondo la questione. È un modo di lavoro, io faccio l'idraulico, lavoro nei cantieri non da tantissimo, ma questo è il mio lavoro e ho visto più o meno come si svolgono le cose, ed è un po' dappertutto così. Quando lavori per commissione, per conto di altri, per conto terzi, in una scala di appalti a cascata che poi hai il capo del capo del capo che ti dice cosa fare, va bene? A un certo punto cosa si determina? Si determina che te sei l'ultima ruota del carro, sei l'ultimo gradino sul quale viene scaricato il risparmio per la massimizzazione del profitto da parte di chi ha preso il lavoro, sei l'ultimo gradino sul quale viene massimizzato il risparmio su chi invece ha commissionato il lavoro, e sei l'ultimo gradino sia non solo in termini di sicurezza ma anche di precariato, anche di instabilità, cioè sei veramente quello su cui il lavoratore diventa quello su cui si scarica il risparmio, il profitto in termini di mancata sicurezza di tagliati, tempistiche allucinanti, orari di lavoro con straordinari, obbligatori e tutto il resto. Chiaramente tutto questo determina una situazione che mette a rischio chi poi è lì a lavorare. E allora chi è che ha determinato questa situazione? Chi è che ha reso possibile? Perché poi non è una roba che succede fuori dalla legalità, è una roba che è perfettamente legale. Quando c'è stato il governo Monti, con il benestare di centrosinistra e centrodestra, erano tutti allegramente al governo insieme, hanno votato un bellissimo decreto che sostanzialmente permetteva, va bene, un numero quasi illimitato di appalti e subappalti, creando un sistema di scatole cinesi per cui si va a determinare tutto quello che dicevo. Certo. E questi signori erano al governo e questi signori questa roba l'hanno votata tutti, va bene, dalla Meloni a Salvini, Meloni no, non c'era al governo, ma da Salvini al PD, passando per Monti e i centristi di Renzi. E quindi, diciamo, politicamente i primi responsabili di quello che è accaduto e di quello che succede tutti i giorni nel resto d'Italia, nella cantieristica, sono questi signori. Ma insieme a loro ce ne sono altri. Insieme a loro c'è il sindacalismo confederale, CGIL, CISL e UIL, che a fronte di un decreto che parlava sostanzialmente di legalizzazione del caporalato, altro non è che questo. Non hanno fatto, non solo non hanno fatto un'ora di sciopero, non solo non si sono opposti in nessun modo, ma hanno firmato dichiarando soddisfazione rispetto agli accordi raggiunti sul decreto appalti. Quindi, no? Il sindacato che dovrebbe in qualche maniera essere baluardo della classe, della potenzialità conflittuale della classe, ci svende in questa maniera, a riprova di quello che è l'atteggiamento di CGIL, CISL e UIL negli ultimi, probabilmente da sempre. Negli ultimi Dall'altro 50 stamattina, negli ultimi 50 anni stavo dicendo, esatto, però vabbè, dai, non siamo comunque esatto. 50, dai, dai, dai, sempre con questi Ma numeroni alti. 30, altri bazzi, vogliamo 30. dire. Tra l'altro stamattina alla Leopolda c'era un mega convegno con Landini e Bombardieri a parlare di sicurezza del lavoro, quindi Oh, insomma cascava a l'altro pennello aspetto proprio. è proprio questo, è quello delle sfilate, perché se da una parte ci sono le responsabilità politiche, se dall'altra ci sono le responsabilità di chi non ha mosso un dito e ha accettato i decreti senza battere il ciglio, da quell'altra ci sono le passerelle, c'è Landini che viene a fare la passerella a esprimere cordoglio sul cantiere, la Schlein, Gianni, Nardella, no? Nardella che addirittura arriva a ringraziare Esselunga perché Esselunga accelera i lavori di compensazione, andando a costruire un giardinetto collaterale al supermercato, che altro non è che lo sblocco del fatto che noi si è costruito il giardinetto, quindi adesso diventa inevitabile poter Continuare. continuare a costruire il centro commerciale. E Certo. Nardella ringrazia Esselunga a 3 settimane dalla strage. Oh, Ottimo. ecco, nel senso, siamo in un quadro che sfiora che è sicuramente arrogante, ma sfiora addirittura altri livelli. E niente, Sì. ecco, domani scendiamo in piazza con tutto questo addosso, tutto questo anche che, diciamo, in qualche maniera ci carica e ci dà quella spinta anche di rabbia, sinceramente, perché se da una parte c'è una fase propositiva, che è quella del parco, della riappropriazione, della pretesa di avere in mano il futuro e il destino di quella zona, da quell'altra c'è tanta rabbia dovuta alla condizione in cui ci fanno lavorare. Certo. Quindi ci vuoi ridare un attimo al volo l'orario per domani? E da dove parte il corteo? Esselunga di Novoli, ore 15:30, si parte da lì, Perfetto. si passa da Via Mariti, si Sì. arriva in Piazza Dalmazia e si finisce in Piazza Leopoldo. Ok, ottimo. Bene. Allora che dire, intanto grazie, ci vedremo domani in piazza. E niente, sì, di questa politica un po' delle passerelle, queste amministrazioni, insomma, che si vantano di varie cose, parleremo anche dopo nell'intervista con Nemos. Quindi, se poi vuoi continuare a ascoltarci, ci fa piacere. E come sempre, come diciamo a tutti, se volete, insomma, ogni tanto condividere con noi le vostre battaglie o qualsiasi altra cosa, noi siamo, insomma, vi faremo volentieri da megafono. Super volentieri, grazie mille. Bene, grazie ancora. Ciao. Ciao, a domani. Casa su casa, che chinguen a su madre. Cambiaron la chapa y ya no se ve la llave. Chale, como que nadie más cabe. Si la tierra es de todos, la tierra es de nadie, ni tuyo ni mío. Menos un bolillo alzando la patita. Chisquete amarillo, el vecino que ya no da la bienvenida. Soñadores que ahora viven una pesadilla. Yeah, for the dreamers. So wake up, yo, the alarm clock ringing. Ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, pick the alarm clock ringing. Wake up, y'all, the alarm clock ringing. Ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, pick the alarm clock ringing. Yeah. Dicen que Dios se ríe cuando le platicas tu plan. Qué buen sentido de humor tiene ese man, porque ya no hay chamba. Ya se van de Tenochtitlan a Disneyland. Dueños de sueños americanos heredados a hijos, hijos mexicanos soñadores. Algunos sueñan al revés, como este gringo loco que canta en inglés. So I say to make America great, my friend, they're gonna have to make America Mexico again. All of these dreamers really could contend that they never crossed the border crossed them. Wake up, y'all, the alarm clock ringing. Bringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all, need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, let the long clock ringing. Wake up, y'all, the alarm clock ringing. Bringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all, need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, let the long clock ringing. Yeah. The alarm clock ringing, ringing for freedom. Need to wake up dreaming. Wake up, y'all. Need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, but the alarm clock ringing. Wake up, y'all. The alarm clock ringing, ringing for freedom. Need to wake up dreaming. Wake up, y'all. Need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, but the alarm clock ringing. Say, wake up, y'all. Yeah, come on, you gotta wake up, y'all. Come on, you gotta wake up, y'all. Bring it for freedom, yeah. Come on, you gotta wake up, y'all. Bring it for freedom, yeah. Come on, you gotta wake up, y'all. Anita, ti giù in the house. E rieccoci su Radio Contado. Abbiamo per voi una nuova rubrica elaborata dalla ideata dalla Grebana. Sì, diciamo è nata di spontanea volontà in realtà, quindi è una super mini rubrica perché dura pochi secondi, però per ogni puntata avremo la parola della settimana e ovviamente sono parole che vengono dal dialetto fiorentino, che però devo dire che anch'io spesso, ora per l'appunto quella di questa puntata è già abbastanza famosa, però ne ho sentite molte dal nostro amico Manlio, che è veramente quello che è registrato e registrerà per noi queste parole, e io non le ho praticamente mai sentite dire, diciamo. Quindi sono Manlio, il nostro anello di congiunzione con la generazione dei nonni che non abbiamo. E questa è sempre una bellissima cosa che succede, sì, solo a Radio Contado, quando, sì, quando le ascoltatrici e gli ascoltatori si fanno promotori di nuovi contenuti. Esatto. Approfitto per invitare tutte e tutti a imitare Manlio, sì, e lo lo mandiamo e voi pensate a quale può essere il collegamento tra questa parola che sentirete e questa puntata, che secondo me c'è il collegamento. Bottino. In toscano il bottino è il pozzo nero, o anche logo. Ah, vabbè, era brevissima. Era veramente brevissima. Però abbiamo anche ovviamente le nostre classiche rubriche, perché noi ormai non abbandoneremo mai più Cinemela, e quindi nonostante abbiamo Pamela in trasmissione, a noi ci piace avere Pamela comunque, ovunque, e quindi abbiamo Pamela dal vivo, Pamela registrata, Pamela che... Pamela a testa in giù. Esatto, Pamela in ogni salsa. Beh, tra l'altro la penultima puntata è uscita un'altra Pamela da dentro di me e ha iniziato a svarionare e a dire che era pronta e disposta a recensire libri, spettacoli, sì, teatrali. Recensisce tutto adesso, Pamela. Di tutto. Lo stiamo andando a giro. È una scheggia impazzita. Fate attenzione, adesso questo dovrebbe essere un Cinemela normale. Pamela, però... Ma è un Cinemela da 8 minuti, è plausibile? Sì. Perché c'è un nome strano, vabbè dai, fai play, vediamo se non è una registrazione è casuale, privata di Pamela. No, non è Cinemela, prova a guardare tu un attimo. Vedi? Questo è Pamela a casa sua. No, questa è Pamela David Byrne. Non è Cinemela. Ed è For You, come canta il nostro amato David Byrne, questo Cinemela. Benvenuti a Cinemela, puntata numero 11. Devo dire che nelle puntate precedenti non mi sono molto concentrata su di voi, a parte le vostre segnalazioni, che sempre sono gradite. Però questa volta, in cui non ho particolari segnalazioni da farvi, ho pensato di dedicarvi questa puntata pensando proprio a voi e al fatto che magari guardate questi film prima di andare a letto e che magari molte volte i film che vi propongo vi rovinano un po' i sogni. Così ho deciso di andarci piano, consigliarvi dei film un po' più sostenibili e in mezzo a questi mettercene soltanto uno che è pura tragedia. Quindi i film di questa settimana partiamo e sono: il primo, Soft, una storia, seppur una storia difficile di integrazione, comunque una storia, diciamo, raccontata in maniera leggera. Si tratta di Benvenuto a Merlis-Gaumont, un film di Julien Rambaldi, un film francese del 2016, in cui ed è la storia del primo dottore che africano di colore che va ad esercitare in un piccolo villaggio a nord di Parigi nel 75. Ecco, questo un po' le avventure che vivrà lui e la sua famiglia vengono narrate in questo film fatto bene e che comunque appunto vi manderà a letto con un barlume di speranza. L'altro film che ho scelto per voi questa settimana, sempre sul versante soft, si intitola Armada, sfida al confine del mare. È un film del 2015 di Roel Reiné e in originale si chiamava Admiral e è molto bello e ve lo consiglio perché ha un rifacimento meraviglioso di un periodo che è il secolo del 1600, dove in Olanda, che in Olanda è detto il periodo delle sette province, in cui c'era una guerra civile, diciamo, in atto in quei territori e anche tutta una serie di attacchi dall'estero, in particolar modo dalla Francia e dall'Inghilterra. E questo, comunque l'Olanda era una monarchia e quindi doveva rispondere a questi attacchi e quindi manda più o meno al macello questo suo ammiraglio, Michel de Ruyter, che fu un ingegnere navale tra i più geniali del suo secolo. Ovviamente l'ingegneria navale a quei tempi veniva applicata all'arte bellica e quindi lui è la storia della sua ultima avventura in mare, però anche appunto tutta la strategia bellica, insomma, è ben ricostruita, considerato appunto che era 1600, è storicamente un film interessante. Anche questo vi manderà a letto tranquilli. Quello che vi ho un po' impacchettato in mezzo a tutti questi qua un po' più leggerini è un film che ho visto in questa settimana, si chiama My Name is Low Ki-Wan, e questo insomma è quello un po' più pesante, ecco, della puntata che vi propongo, per quanto insomma un po' tutta la puntata rispetto ad altre vi va di lusso, ecco, in termini di serenità. Comunque, questo My Name is Low Ki-Wan è un film del 2024. Tra l'altro lo trovate su Netflix, così come anche il primo che vi ho citato, Benvenuto a Merlis-Gaumont di Julien Rambaldi. Questo invece, My Name is Low Ki-Wan, è la storia, è interessante perché è la storia tratto da un romanzo del 2013, quindi di 10 anni fa, che raccontava l'immigrazione, una delle vicende insomma di immigrazione della Corea del Nord verso l'estero. La Corea del Nord verso l'estero, i disertori, ecco, della Corea del Nord hanno come unica alternativa finire in Cina, dove più o meno vengono perseguitati. Ed in particolar modo la storia questa di Lee Ki-Wan è la storia di un giovane ragazzo, tra l'altro un attore anche molto bravo, di cui non vi ripeto il nome perché veramente ho pena per voi che dovete ascoltare la mia pronuncia cinese, nonché anche tutte quelle delle altre lingue, però lui praticamente a un certo punto, insomma, riesce, non vi racconto come, riesce ad avere i soldi per andare in Belgio e arriva in Belgio dove non conosce una parola d'inglese. Per fortuna, insomma, diventa, cioè, questo dramma ha anche del romanticismo e quindi c'è della solidarietà, c'è della vicinanza da parte delle persone della stessa etnia, no? Della stessa provenienza. Ci sono un po' tutti gli ingredienti che connotano queste storie, nel bene e nel male, ed è, insomma, comunque particolare anche questa. Insomma, come vanno a finire e come vivono queste persone nelle condizioni, appunto, di essere nella fase di richiedere asilo e quindi non essere regolari. L'ultimo film che vi consiglio per questo Cinemila puntata numero 11 è The Boys in the Boat. The Boys in the Boat è un film di George Clooney, non con George Clooney. George Clooney speriamo sia un altro che invecchia bene, come Leonardo DiCaprio, che vi ho citato nelle scorse puntate. Non è Ridley Scott, però fa questo film che riguarda una storia vera, una storia tratta comunque anche da un romanzo, che è la storia della squadra degli Stati Uniti che si presentò alle Olimpiadi di Berlino nel 1936. E la squadra di canottieri. Questi canottieri erano comunque tutti provenienti dalla classe operaia, poveri, figli di famiglie povere che si ingaggiano in questa attività agonistica per avere uno stipendio, una casa, e però poi dopo, insomma, poi è un po' tutta la parabola classica di tutti i film che parlano di sport, e quindi l'avvio, grande entusiasmo, morta de acqua, grande depressione, me ne vado, mollo tutto, e dopo invece più o meno tutti finiscono felici e contenti. Insomma, è un film americano, ecco, non dice molto di più, però ha una buona scenografia, e poi comunque anche questo George Clooney come regista ci ha già dimostrato in altri film, insomma, di avere delle capacità che noi apprezziamo, ecco, e quindi per questo motivo ve lo segnalo. Bene, questo direi che è l'ultimo film che vi consiglio per questa puntata di Cinemela. Vi ringrazio dell'ascolto, attendo vostre segnalazioni, come sempre il mio invito è sempre aperto, ditemi e facciamo e parliamo, non soltanto di cinema, se volete anche indicarmi teatro, libri o altro, siamo qua, Cinemela rimane a vostra disposizione. Ciao ciao! Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun. Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla. La tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciati la metropoli, belli come noi ben pochi sai ce n'erano, e dicevano quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spacciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli con la faccia di cera. Sulla pianta prendevi il sole con me, e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre. E le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune dice che però la città sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù e non viene su. Eccoci in diretta sempre qui su Radio Contado come ogni due venerdì. Esatto, e voi avete ascoltato Cinemela, quindi pensate che la trasmissione sia giunta al termine, ma non è così. No, perché sono solo le 4.45, noi abbiamo ancora un sacco di contenuti. Esatto, un sacco di cose da dirvi. No, non è vero, in verità abbiamo questa intervista lunghissima che ha fatto la buona cara Grebana a Nemos, il famoso muralista, moralista. E vabbè, che parla sempre di gentrificazione, città, insomma, l'avete capito il tema di oggi. È un'intervista molto lunga, da un'ora, per cui noi quasi quasi vi salutiamo già, la spariamo e poi voi decidete se rimanere in ascolto o meno. Comunque, insomma, andate sul sito di Radio Wombat per trovare tutti i contenuti e altrimenti ci si sente tra due settimane. Esatto. Ma il reverendo voleva fare anche un po' una mini rassegna eventi. Ah, una mini rassegna eventi, sì. Assolutamente, assolutamente. Voi cosa fate? Quindi domani cosa facciamo? Cosa fai, Pamela? Io domani vado a casa Pippi, dove c'è la passeggiata di riconoscimento erbe spontanee, edibili e curative. Parte alle 10, all'una c'è il pranzo con le erbe spontanee e le verdure di stagione. È una bellissima iniziativa che andrà a sostenere e ad aiutare il progetto Mangona. E quindi io domani vado lì, mi piazzo alla Mangona, anzi ci vado già stasera, che così sono pronta all'inizio, alle 10, prima tra tutte. Sì. Ma come, non va il corteo? Ah, il corteo? E te, reverendo, invece? Reverendo, te che fai? Io faccio tutte e due, raga. Io sono un ettrino, per cui se intanto qualcuno mi vuole invitare pure a cena, ci posso andare anche lì. Solo il clero può fare il militante, no? Questa è la risposta. L'ubiquità del clero. Reperendo ovunque. Reperendo. E dopo questa serie di cazzate vi lasciamo quindi a questa bellissima intervista approfondita con Nemos, che insomma tutti avrete sentito ormai e letto scusate, della polemica che c'è stata in seguito a un suo dipinto che gli era stato commissionato da un architetto che si occupa della ristrutturazione del Museo Novecento e di questa struttura che dovrebbe diventare una residenza artisti. Lui, diciamo, ha creato il suo dipinto e alla fine è venuto fuori e questo dipinto non andava bene. Però poi, diciamo, tutta questa polemica, poi diventata anche un po' una battaglia politica da una parte e da un'altra tra Montanari e la Giunta Nardella, non si sapeva più bene come era andata la faccenda. Quindi era stato super interessante sentire invece l'opinione di quello che l'aveva fatto e ci siamo fatti quindi spiegare sia un po' cosa significava per lui quel suo, il suo lavoro, la sua opera, e anche insomma poi come è andata tutta questa storia in realtà. Quindi molto interessante, stavo molto bello, però adesso vi occupate un'ora di intervista. Sì, è uno scoop, eh? Non è che lui dà interviste, esatto, destra e manca, non cioè è noi che... siamo una radio famosa. Adesso noi avremo soltanto conto. Delle perle. Esatto. Perle. Bene, quindi salutiamo tutte, yes, tutti, tutto. E ci sentiamo solidale tra... e solidale. E ci sentiamo tra due venerdì. Baci, baci. Scriveteci, ciao, a presto. Ciao. Oh, eccolo lì, il binario 1349. Andiamo! Dai, su! Oh, ma che te pare che sei ribotte? Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Allora, eccoci qua, oggi in questa puntata che parla di città abbiamo qui un, diciamo, ormai famoso muralista o street artist, non so nemmeno come definirti, poi magari me lo dici meglio te come preferisci essere chiamato, e quindi parto subito per introdurti con questa prima mezza domanda, cioè te firmi, diciamo, i tuoi lavori Nemos, quindi se io adesso parlo con te ti chiamo Nemo. Sì, beh sì, dai, diciamo va bene. Va bene, con questo genitivo. E quindi sì, come ti definisci te, diciamo, muralista? Sì, muralista, comunque sì, un disegnatore, ecco. Okay. Poi, disegna quello che fa da comune denominatore a tutta una serie anche di cose, quindi sì, un disegnatore, va bene, dai, avanza. Ma ci vuoi dire un po' come mai hai scelto questo nome o non nome, un po', diciamo, un po' tipo alla Wuming? Ma in realtà diciamo che è sempre stato piuttosto comune, come dire, usare una sorta di nome di battaglia, sì, dai partigiani a poi anche scrittori, poeti, artisti, eccetera. E no, in realtà appunto io poi ho iniziato a fare graffiti quando ero adolescente, quindi meno male era la cosiddetta tag. Mm-hmm. E niente, Nemo in latino vuol dire nessuno, quindi era un piacevole paradosso, mm-hmm, pensare che qualcosa che appariva per strada non l'avesse fatto nessuno. Ottimo. E poi vabbè, poi perché avevo questo libro, mi regalò mio nonno questo fumetto che si chiama Little Nemo, e mi raccontava la storia di questo bambino un po' strano, aveva degli incubi, quindi diciamo che la parola Nemo si è susseguita e ripetuta varie volte nella mia vita. Ok. Ma e senti, te ora fai il muralista di mestiere? Non necessariamente, nel senso che dipende un po', qui sarebbe da aprire una parentesi molto grossa, nel senso che dipende cosa si intende per mestiere, nel senso che non mi interessa campare di questo, ovvero non mi interessa avere, come dire, l'esigenza di dover per forza scendere a compromessi, perché il lavoro poi alla fine di più chi meno deve scendere a dei compromessi, e quindi preferisco ad avere altri lavori e poi sì, sicuramente fare anche questo, ma non diciamo utilizzarlo solo come unico introito per mangiare, diciamo. No, sì, principalmente il mio mestiere, ecco. Ok. E infatti la domanda che poi ti volevo fare collegata a questo era, cioè, cosa pensi te del fatto che le istituzioni o comunque, diciamo, degli organi più istituzionali comincino a interessarsi un po' a questo tipo di arte, e quindi, cioè, se te lo vedi come una cosa positiva, o se da un lato ti sembra quasi, cioè, che ci sia una paura che poi questa cosa venga un po' fagocitata? Ma ripeto, anche, cioè, ancora è una questione molto complessa, che secondo me avrebbe anche senso spesso, anche sarebbe interessante, come dire, ragionarci su e parlarne. Io sono sempre un po' così disincantato su queste cose, nel senso che avendo vissuto anche un po' tutta la parte del graffiti fascismo negli anni 2000, eccetera, quando questa cosa non era, il dipinto per strada non era così di moda, ecco, e quindi c'era un tipo di repressione, o comunque c'era anche una visione dell'artista in sé che si esprime per strada molto diversa, e poi magicamente ad un certo punto, sia dal punto di vista delle istituzioni sia soprattutto dalle istituzioni anche in un certo senso accademiche, quindi che come dire, che avevano a che fare con non so, con istituti culturali piuttosto che con altre con altri luoghi, e magicamente ad un certo punto, diciamo, c'è stata questa sorta di fioritura forzata, direi non naturale, e quindi ad un certo punto le varie, come dire, giunte comunali, i professoroni eccetera hanno iniziato ad amare questo modo di esprimersi, che in realtà però poi come dire, adesso secondo me è diventato un modo un po' di plastificato, un po' da copertina, nel senso che c'è sempre questa sorta di retorica sempre che ci si porta dietro sul diritto al bello, il diritto all'arte eccetera, che poi non si capisce neanche tanto cosa voglia dire, e non si capisce, come dire, quale sia il metro di giudizio per, come dire, definire una cosa bella o interessante perlomeno agli occhi del pubblico, sì, quindi, ecco, o se denunciare qualcuno perché scrive su un muro, o se pagarlo per farlo. Sì, perché poi appunto che nascono tutta una serie di, come dire, di paradossi, no? Perché poi c'è la giunta che ti denuncia, però poi dopo un mese magari trovi la foto del muro tal dei tali del ragazzo denunciato su, che ne so, una rivista piuttosto di settore, piuttosto che su un blog, cioè, quindi c'è un po' di schizofrenia. Io credo che questa cosa sia dovuta semplicemente al fatto che l'accettare questo modo di esprimersi non sia, come dire, avvenuto in maniera sana, in un certo senso, ma è appunto, come tutte le mode, è esploso, e quindi la gente lo ha accettato e lo ha, parte delle persone ovviamente, le istituzioni lo hanno, come dire, fatto proprio senza sapere in realtà di quello di cosa si stava trattando, della storia, di tutta una serie anche di dinamiche che come dire, hanno a che fare con questo modo di esprimersi in maniera che è molto complesso. Ecco, quindi io credo che ci sia molto opportunismo, come dire, quando un'istituzione si sente interessata o si interessa a queste cose semplicemente per il fatto che purtroppo per il 90% delle volte è una, come dire, una questione di marketing, di propaganda, di, come dire, di un specchio per allodole, cioè come dire, l'amministrazione tal dei tali si fregia del fatto che è magnanima e concede gli spazi pubblici agli artisti perché viva l'espressione, viva la libertà, appunto la bellezza, ma poi in realtà è un vaso di coccio vuoto. Ecco, secondo me è una questione molto complessa. Certo, sì. Però ecco, io sono molto, come dire, molto polemico, molto critico con questo modo di, come dire, di trattare questo tipo di cose, ecco. Cioè, ci vedo molto opportunismo. Sì. E quindi qui passo, diciamo, al lavoro quello che hai fatto a Firenze, perché ci volevamo intanto sapere un po' come, chi ti ha contattato, qual è stata la richiesta che ti era stata fatta, diciamo. Allora, io sono stato contattato da, diciamo, allora io collaboro da un po' di anni con questa galleria che si chiama la Street Level Gallery, che comunque è una galleria che tratta, come dire, tratta appunto, lavora con artisti, diciamo, principalmente che, come dire, che fanno arte urbana, ecco, mettiamola così, e ho bellissimo rapporto, sono degli amici, eccetera, quindi li stimo molto anche dal punto di vista anche dei progetti che fanno e di tutta una serie di cose. Niente, semplicemente loro hanno fatto da tramite perché l'architetto incaricato, diciamo, responsabile della ristrutturazione di questi locali che poi verranno adibiti a residenza artisti. Sì. L'architetto chiese espressamente alla galleria se la galleria avesse avuto i contatti di un artista perché lui avrebbe voluto far realizzare un murale all'ingresso. Okay. Specificatamente la consegna era per rappresentare Firenze, la Firenze, come dire, contemporanea e come dire, in maniera critica, cioè ovviamente non semplicemente o solo architettonica o esteticamente solo, no, riconoscibile, ma critica. E ovviamente la galleria ha fatto il mio nome perché bene o male, come dire, corrispondeva un po' alle esatto, alla richiesta, certo. Ok, ovviamente. Ok. Sì, no, poi semplicemente sono seguite un paio di, come dire, di chiamate con l'architetto dove ci siamo confrontati, eccetera. Poi sostanzialmente è iniziato. Ecco. Ok. E quindi, vabbè, se ti va un po' di descriverci un po' questo disegno, insomma, questo dipinto, perché magari essendo in radio, insomma, comunque, come se tu dovessi descriverci le varie parti che compongono questo tuo paesaggio fiorentino un po' particolare, diciamo. Ma sostanzialmente, tra l'altro, faccio una piccola parentesi, nello scambio di, come dire, di opinioni o comunque di con l'architetto era venuto fuori anche il discorso, cioè lui accennava al discorso di Bosch, quindi di Bruegel, comunque di artisti che comunque bene o male avevano rappresentato un periodo della storia in maniera non, come dire, esteticamente sì. Con un certo tipo di estetica, no? Ma anzi erano grotteschi, avevano anche comunque bene o male messo al centro dei loro dipinti i meccanismi umani, l'umano in primis, eccetera eccetera, quindi le relazioni, quindi diciamo la consegna in un certo senso era piuttosto chiara. Okay. Detto questo, io ho cercato di rappresentare o comunque di descrivere dei macro argomenti presi un po' dalla cronaca, un po' comunque bene o male da quello che si sa, nel senso che si apprende conoscendo persone che stanno a Firenze, leggendo, eccetera. Tre macro argomenti. Il primo è ovviamente quello degli affitti, delle case, comunque della tutta la questione del centro storico, quindi c'è praticamente la sì, gente che la turistificazione. La turistificazione, ma soprattutto l'aumento, come dire, estremo degli affitti, dei costi, è come se ci fosse una sorta, come dire, di mostro trasparente che come dire, che si mette contro la gente comune, usando varie armi, e le varie armi appunto sono cosa avete improponibile, insostenibile, i costi degli affitti, gli affitti e gli appartamenti che bene o male vengono venduti a grandi, non dico corporazioni, ma comunque grandi ricchi stranieri per poi farci, non so, appunto Airbnb, o comunque che vengono sostanzialmente spremuti come se fossero una mucca per poi, ecco, non lasciarli in vita e quindi sostanzialmente questo è stato il primo argomento, il primo macro argomento. Poi tra l'altro, ecco, tutti questi argomenti, ho scelto questi argomenti per queste tematiche perché sono tematiche riconducibili bene o male anche in molte altre città d'Italia. Io, nel senso, io sto vicino a Milano e bene o male, come Firenze è un po' una città simbolo a un certo tipo di cultura, per il simbolo del Rinascimento, sì, anche dal punto di vista culturale, eccetera. Allora mi interessava prendere dei fatti che comunque potevano essere cuciti o, come dire, collocati anche in altre realtà, come potrebbe essere Firenze, Venezia, come potrebbe essere Milano, come potrebbe essere forse anche Bologna, con il centro di Bologna, eccetera, cioè Roma. E quindi ecco, questo qui è il primo argomento. Sì, per l'appunto parleremo di Venezia in questa puntata. Infatti, quindi, nel senso, poi io ho vissuto qualche anno a Venezia anche, quindi tanti anni fa, dove la situazione era appunto immobiliare, però già allora c'erano appunto i veneziani, la gente o gli studenti che venivano espulsi, spinti fuori per poi lasciare o dei palazzi vuoti, sì, o semplicemente quei palazzi vuoti poi venivano appunto affittati. Ma per fare un esempio, a Milano, il centro di Milano è vuoto, vuoto, o gli appartamenti vengono venduti o affittati solo per uffici o per attività commerciali di un certo tipo, tant'è che è assurdo come di giorno in centro ci sia molta gente e dopo l'orario di chiusura, in un certo senso, delle attività lavorative, il centro si svuota totalmente, perché ovviamente quelle persone lì persone sì, sono il sintomo in realtà di persone che lavorano, che in realtà poi vivono da un'altra parte. Sì, ma come a Firenze, via via tutte le università sono state decentralizzate, erano tutte vicino al centro storico e pian piano abbiamo espulso tutti gli studenti che creano casino e creano tutta una serie di cose sempre più verso la periferia, per lasciare questa immagine patinata di questa Firenze al turista del Rinascimento, bellissima, dove però non ci vive più nessuno, fondamentalmente non trovi mezzo fiorentino. Sì, infatti, ma poi ci può essere anche, per dire, il mio non è tanto un discorso soprattutto che appunto il fiorentino deve per forza essere, ma perché è giusto, e secondo me è anche interessante che ci sia anche un via vai di persone che vengono da altre città, da altri paesi, che siano studenti, che siano persone che vanno a lavorare, che vengono. Però il centro di una città, che non deve essere per forza identificato col centro storico, così un po' con profumo di borghesia, ma il centro di una città è il centro dove avvengono le interazioni, gli scambi tra esseri umani, tra persone diverse, con le botteghe, con gli studenti, le università, le piazze, ecco. Quindi tutta questa cosa qua nella nostra contemporaneità, credo, almeno è una mia opinione, ovviamente vedo che sta cambiando molto, si sta, come dire, appunto lasciando la... Sì, c'è una mercificazione di tutto, cioè... Sì, ormai come dire, l'unica unità di misura è quanto quella cosa possa farti guadagnare. Faccio un altro inciso, che tra l'altro, guarda caso, in un certo senso ho letto ieri su, non mi ricordo su quale giornale, ma c'è almeno questo articolo che diceva che il genero di Trump ha detto questa frase, come dire, oscena, dicendo: beh, il lungomare di Gaza molto probabilmente adesso ha senso investirci, perché come dire, sì, darà come dire, soddisfazione dal punto di vista del ricavo tra qualche anno, perché è ovvio, no? Sì, certo. Speculi e compri le macerie, le macerie, esatto. E poi cioè, quindi questo è il modo di ragionare, ovviamente non è il modo di ragionare di tutti, adesso non voglio, ecco, sarà un esempio interno, però bene o male viviamo in un mondo dove come dire, la centralità del denaro, che è l'invenzione più misera dell'essere umano, è quella che in realtà regola le nostre vite, le nostre relazioni, i nostri desideri, le nostre possibilità soprattutto, e questa è una cosa molto, secondo me, per il mio, penosa, ecco. E quindi ho cercato di, come dire, di raffigurarla con una metafora nella, diciamo, nella prima parte del disegno. Poi c'è la seconda parte, in un certo, lo stesso secondo macro tema, che è un po' la gestione del, non del bene comune, ma della cultura in generale, che è poi stata un po' quella con, in realtà è stato un po' il l'oggetto del almeno dello scandalo. Dello scandalo. Sì, che è cioè, in un certo senso raffigurata da Palazzo Vecchio, trasformata in una casa, in un registratore di casa, un vostro scontrino. E quell'immagine lì, come dire, è la traduzione, ripeto, è un mio punto di vista ovviamente, è la traduzione di tutta una serie di questioni che sono successe sia a Firenze, ma che, come ripetevo prima, succedono in tante altre città, compresa Milano, Venezia, eccetera, eccetera, dove l'amministrazione di turno, in quel caso lì di Firenze, è una, come dire, è una critica che risale anche alle amministrazioni precedenti, assolutamente, quindi non è una critica all'amministrazione adesso, ma è una critica alle amministrazioni precedenti, che poi Nardella fosse stato il vice sindaco all'epoca di Renzi, possiamo vederlo come fosse come un caso però, sì. Chi se ne frega, nel senso, sì. Però anzi, in un certo senso era proprio la, come dire, volevo parlare di un fatto di cronaca che a Firenze affittò a Ferrari, se non sbaglio, Ponte Vecchio per una festa privata, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, diciamo che l'incasso, che a parer mio è un incasso così, un po' così poco virtuoso, in un certo senso si riferiva a quelle cose, si riferiva al privare a beneficio del sempre di questo dio denaro il bene comune, se vogliamo chiamarlo così, il bene comune. Sì, tra l'altro io mi ricordo che quando venne, adesso io non so chi fosse, ma comunque venne un funzionario del comune, comunque adesso non credo fosse un assessore, anzi sicuramente non era un assessore, avvenne questa sorta di dialogo tra me e lui, e lui si guardò il disegno e mi disse: ma guarda, cosa un po' offensiva, però io gli spiegai ovviamente questa cosa che sto dicendo, e addirittura gli faccio un esempio dicendo: guardi, io questa cosa l'ho fatta soprattutto per il discorso del ponte, perché il chiudere un ponte, in un certo senso, poi è ovvio che sull'Arno ci sono 100.000 ponti, sì, ma simbolicamente è un atto molto forte, cioè, tant'è che io lo paragonai quasi come se fosse un aneurisma, nel senso, se tu tappi un ponte è come se tu privassi le persone, oltre a salire su un ponte storico, eccetera, eccetera, ma privassi le persone in maniera simbolica di accedere all'altra parte della città, o comunque di poter attraversare il fiume. E quindi mi ricordo che gli parlai di questa cosa, però beh, non credo di averlo convinto troppo. E niente, ecco, quindi questo, diciamo, è stato il terzo grande macro tema. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di dettagli, c'è la città rappresentata, poi c'è un omino che tappa le pudenda, il David Michelangelo, sempre un po' per ricordare il fatto della delegazione, non mi ricordo se da dove venisse, se gli Emirati Arabi, o comunque che tapparono delle nudità di alcune statue per rispetto, sì, eccetera. Ecco, questa cosa qua, che è una cosa che insomma è gravissima, non tanto perché a me non me ne freghi niente di chi, dell'ospite, sì, ma vuol dire non capire niente di quello che è il patrimonio culturale che uno ha e che uno ha attorno, soprattutto in una città come quella di Firenze, nel senso non è che è arrivato un marziano da Marte dicendo no, vabbè, ma qua sono tutti nudi, quindi però non sapendo, cioè lì si tratta, siamo talmente ignoranti che non proviamo neanche in un certo senso a spiegare o comunque a comunicare che quella cosa lì non è una immagine pornografica, ma è qualcosa di totalmente diverso, nel senso quindi ecco, questo è un po' anche la, come dire, la fil rouge che poi appunto secondo me anche quando parlavamo delle amministrazioni che poi si interessano all'arte urbana piuttosto che anche a altri eventi artistici, lo fanno con questo background culturale, con questo modo di vedere la cultura. Poi ovviamente non voglio fare tutto all'erba un fascio, sì. Però bene o male, per non parlare del rinascimento cos'è, citato da qualcuno, gli Emirati Arabi, che parlare di rinascimento in un posto, come dire, dove ci sono ancora delle questioni sociali molto, molto, come dire, sì, spigolose, mi sembra un po' un paradosso, però detto questo. E poi vabbè, c'è la, per ultimare, c'è la, sì, la ruota panoramica Criceto, diciamo, che è una cosa che a parer mio è orrenda. È vero che si può smontare, che non è una cosa, ma è una cosa orrenda, nel senso che io poi arrivai a Firenze di notte e c'era questa ruota che era tutta illuminata con questi raggi colorati, sì, e sembrava stare a Luna Park. Sì, esatto, la città Luna Park, sì. Sì, ma e tu avevi la cupola del Brunelleschi, che è la costruzione architettonica, come dire, più importante di quel periodo storico, e tu di fianco nel come dire, costruisci, cioè, una cosa che Brunelleschi o chi per lui si sarà rivoltato alla tomba dicendo ma ragazzi, ma... sì. Quindi, poi per carità, dei gusti, cose eccetera, non voglio, come dire, imporre a nessuno un'estetica, appunto, però io l'ho trovata bruttissima e soprattutto non necessaria. E quindi l'ho inserita, ecco, nel muro. E poi un po' il terzo macro tema è quello un po' appunto di tutto ciò che avviene attorno alla cultura, alla questione culturale a più ampio spettro, e che però poi ovviamente è sempre filtrata attraverso i social network, questa sorta di spettacolarizzazione di tutto quello che deve essere, come dire, cioè se una cosa diventa spettacolo, allora in un certo senso sì, diciamo, la fai perché sia vista e vista bene, se no non ha valore. Sì, nel senso che basta fare qualsiasi cosa che chiami l'attenzione di una massa di persone, che allora quella cosa automaticamente, come dire, ha valore, ma ha valore perché? Perché si ritorna sempre lì, perché ovviamente dietro ci sono tutte le questioni, come dire, no? Più gente guarda, più i brand pagano, perché poi ovviamente i social network, bene o male, internet si basa su quello, no? Sì. Sull'equilibrio sproporzionato tra inserzionisti e grandi multinazionali che mettono i propri prodotti, eccetera, le proprie firme, e più tu fai vedere, più fai vedere qualcosa, più, no, certo, c'è uno, come dire, un guadagno e un ricavo e una spesa. E quindi appunto sono questi uomini che praticamente filmano un atto così stupido come quello che mi sono un po' immaginato questo personaggio che si trova davanti alla Cooper e Brunelleschi e dice: vabbè, cosa ci posso fare? E l'unica cosa che gli viene in mente è spremerci un'arancia. E quindi e tutti sono meravigliati da questa sorta di piccola performance alla TikTok, e perdono di vista tutto il resto. E, ecco, semplicemente questo, che poi ovviamente lì c'è poi tutta un po' la critica legata, vuol dire, a quella porcheria, che secondo me è una porcheria, di della cos'è, campagna pubblicitaria Open to Meraviglia, che è una cosa secondo me veramente, cioè questo qui è l'ennesimo, vuol dire, è l'ennesima dimostrazione che chi in un certo senso amministra un paese non ha assolutamente idea di cosa sta facendo, in questo caso citando una cosa piuttosto che un'altra, cioè quindi ormai la nostra vita è vista tutta come se fossimo dei brand, cioè dei brand, dei prodotti commerciali, no? Quindi tutto è commerciabile, tutto è utilizzabile per pubblicità, per poter fare soldi, per fatturare, cioè ormai è tutto questo. È ovvio che se la direzione è quella di del denaro e basta, uno non può poi lamentarsi che ci sono tutta una serie di, come dire, di problematiche anche, no, sociali legate all'amministrazione del bene comune, eccetera, eccetera, perché poi è una cosa, secondo me, a domino, cioè una cosa, come dire, causa l'altra e così via dicendo. Quindi infatti, insomma, tutto l'aspetto del denaro, del potere legato al denaro, è anche una cosa molto ricorrente nei tuoi dipinti. Sì, ma semplicemente per il fatto che il denaro è, come dire, è uno strumento senza potere, in un certo senso, paradossalmente, cioè ovvio ha un sacco di potere, ma è una cosa che senza potere, per dire che il potere glielo abbiamo dato noi, nel senso, non è una bacchetta magica, cioè non è una cosa magica che dici che appena la tocco posso desiderare qualsiasi cosa e quello che desidero si realizza. In realtà è un espediente, per questo che lo annovero un po' come forse invenzione, anzi sicuramente invenzione più mite dell'essere umano, perché è un espediente che l'essere umano ha tirato in ballo e che poi, per carità, vuol dire, sacrosanto, cioè non sto sputando sopra, no, perché poi mi immagino anche chi poi non sarà d'accordo con quello che dico, che si attaccherà a qualsiasi cosa, a qualsiasi frase, però ecco, diciamo, è un aspetto, secondo me, della nostra vita, della nostra società, purtroppo, che è tossico, ecco, che ha fatto più male che bene, o comunque il bene a pochissimi e male a tanti altri, ecco. Cioè per denaro si fa qualsiasi cosa, ovviamente. Adesso poi io non farei qualsiasi cosa, però nel senso, diciamo, purtroppo la storia ci insegna che è il denaro quello che regola il mondo, purtroppo. Sì. Children born to get high, turn your heads to the sky, we're burning in the heat below. With a thorn in the side, and the ocean too wide, and the avenues so so long. Suffering here, in the blood, in the fear. If you Judas be man, I will kill you if I can. Solitary nightbird is singing, oh, thunder crack your hearing. I'm looking for the rain. There's a wraith-like shadow appearing, though my eyes all fail. I'm looking for the rain to fall. Suffering here, in the blood, in the fear. If you Judas be man, I will kill you if I can. Children born to get high, turn your heads to the sky. You're burning in the heat. And the ocean too wide, and the avenues so long. There's a wraith-like shadow appearing, though my eyes all fail. I'm looking for the rain. I'm looking for rain to fall. E quindi a questo punto, diciamo, siamo tutti un po' curiosi di sapere qual è stata la reazione quando hai mostrato l'opera compiuta, perché poi ovviamente abbiamo seguito tutte le polemiche, si sono susseguite sui giornali tra Montanari, la Giunta, Nardella, insomma, e quindi volevamo sapere un po' com'era, qual era allora, stato la faccia che hanno fatto quando hanno visto. Allora, la questione è stata molto semplice in realtà. Te lo racconto per step, diciamo. Io il lavoro la realizzazione del disegno è stata avvenuta in un mese e mezzo più o meno di tempo, nell'arco di un mese e mezzo. Di mezzo c'è stato Natale, Capodanno, quindi bene o male, poi io potevo venire solo su 3-4 giorni alla settimana, quindi bene o male, okay. Non è stato un mese e mezzo filato. Quindi bene o male era l'ingresso del cantiere, uno degli ingressi del cantiere, il cantiere era sempre aperto, il cantiere era sempre battuto dall'architetto responsabile, dai vari vici responsabili della ditta, piuttosto che di chi poi si occupava dell'impresa, ecco, di ristrutturazione. Quindi ci non è stata una sorpresa. Assolutamente no, anche perché poi io, ecco, avevo sentito forse sempre la vostra radio che si diceva sì, però il comune doveva chiedere i bozzetti, non i bozzetti, eccetera. Sono tutte cose che non esistono, perché la richiesta dell'architetto era stata quella di parlare di quello che avrei voluto, rappresentare. Io non ho fatto dei bozzettini che per onestà non erano bozzetti precisi, nel senso che avevo spiegato con questi bozzetti quello che avrei rappresentato, però poi il fatto è che il primo giorno di lavoro io ho tracciato tutto, e sono foto e documentazioni, io ho tracciato tutto sulle pareti, quindi bene o male in un certo senso il bozzetto io poi l'ho realizzato sulla parete, e se quel bozzetto con tutti i dettagli, quindi con tutte le questioni, certo. E quindi se qualcuno avesse ritenuto, poco opportuno, poco decoroso quello che stavo facendo, avrebbe potuto dire subito tempo per poterlo, certo. Quindi ecco, questa cosa del bozzetto non ha senso. E poi sinceramente il bozzetto si chiede se uno ha una commissione, questa è vero, è stata una commissione, è stata una sorta di commissione, però un conto è un privato che dice va bene, voglio questa cosa qua, prima mi fai un progetto e poi vediamo, ma dato che la richiesta era come una sorta di flusso di idee, spazio all'artista. Sì, no, che poi per carità io lavoro sempre così, spesso così, nel senso io non faccio bozzetti semplicemente perché spesso lavoro improvviso molto, nel senso, quindi lavoro, ho bisogno di vedere il posto dove disegno, di capire anche quello che c'è attorno, e grazie a quella cosa lì bene o male mi vengono delle idee, mi riesco a comporre qualcosa che abbia un senso per quel posto, cioè non è semplicemente disegnare una cosa e riprodurla, incollarla. Poi ovviamente le situazioni sono le più differenti, nel senso, e poi ecco, se uno non accetta queste mie condizioni, che sono condizioni legittime, può benissimo dire no, guarda, mi spiace, arrivederci. No, certo, poi in realtà avendo anche scelto te, però, cioè nel senso, comunque i tuoi dipinti, le tue opere hanno un suo stile abbastanza marcato, quindi diciamo uno lo dà anche un po' per scontato, un certo tipo di stile in quello che fai, sì, no? Sì, ma poi è un atteggiamento, sempre per ritornare al discorso che la gente non ha, spesso pensa di, si fregia del fatto, ho fatto fare il murale, l'intervento, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà poi spesso, anche quando, almeno questo qui è un mio modo di disegnare, che non è la regola, però nel mio modo di disegnare e in quello di tantissimi altri, soprattutto che disegnano per strada, il fatto di improvvisare o comunque di avere magari un'idea generica, ma poi di lasciarsi trasportare un po' dal ritmo di quello che uno sta facendo, e aggiungere, togliere, capire, è ovvio che è una è una questa, almeno una parte fondamentale del modo di lavorare, almeno del mio modo di lavorare. Quindi non sarebbe stato, non avrebbe avuto senso sostanzialmente fare un bozzetto e poi magari una qualsiasi virgola mi si diceva no, però di qua e di là, senza poi capire, no, quello che magari avrebbe voluto significare, o il peso che avrei dato a quel dettaglio piuttosto che no. Anche perché poi appunto io avrei potuto fare il bozzetto, ma che cosa succedeva se io ad un certo punto volevo aggiungere un personaggio, perché magari nel mentre mi documentavo comunque accadeva qualcosa per la quale io ritenevo opportuno, come dire, modificare una parte, cioè ecco, questo è quanto, ecco, diciamo, non è una scusa, ma è il mio modo di lavorare, quindi, ma quindi lo si sa è... Certo, ma quindi diciamo, quindi una polemica c'è stata, perché poi da tutto questo battibecco è venuto fuori, poi per montare tutto questo caso, e poi si entra in tutte le dinamiche di politica spicciola che ci interessano anche poco in realtà, cioè era, però diciamo c'è stato comunque un po' uno storcersi il naso da parte appunto della giunta o di Nardella o chi per lui, oppure in realtà è tutto stato montato, diciamo? No, allora io ovviamente diciamo gli unici rapporti diretti che ho avuto con chi poi in un certo senso, mi permetto, non dico ho fatto un po' le orecchie da mercante, ma non si è esposto più di tanto, che per carità liberissimo ci sta, però mi spiace un po', è che in questo caso l'architetto che aveva voluto e richiesto e chiesto espressamente che venisse disegnato, che venisse realizzato un disegno con un tipo di, come dire, di sapore, okay? E scegliendo, comunque approvando la proposta che aveva fatto la galleria, ovviamente per appunto della persona che poi avrebbe realizzato il murale, come dire, cioè, nel senso, se io chiamo un gruppo metal non posso, certo, pretendere che facciano pop music sì, no, la primavera di Vivaldi, non so chi è di Vivaldi, ecco, nel senso, bene o male quello. Poi, ripeto, chi è passato, io non, ripeto, io poi ero concentrato, lavoravo, sono passate un po' di persone, ma che non conosco, non so chi siano, che tipo di rapporto hanno, non hanno, che ruolo avevano nella questione dei lavori, eccetera. Ripeto, questa persona che, ripeto, non so chi sia, non so il nome, non so che... poteva essere un salumiere in realtà, sì, con la cravatta, però nel senso mi parlò come se, in realtà dicendomi, no, tra l'altro, ecco, io spiegandogli questa cosa, dicendogli guardi, questo qui è un murale, la parte della cassa è del registratore di cassa è legato a questi fatti di cronaca, eccetera eccetera, poi argomentandogli, poi io gli dissi guardi, io non ho nessunissimo problema a dare le mie ragioni o a dare il mio punto di vista, e quindi se posso, se lei appunto ha, come dire, ha la possibilità, mi organizzi un incontro col sindaco, piuttosto che con il vice sindaco, con un assessore tal di tale, o comunque con chi possa poi riferire questo. E mi disse sì, e poi non se ne seppe più niente. Okay. Quindi ecco, è ovvio che, come dire, ci sono tante cose che sono intuibili, ma che ovviamente non hanno un fatto, come dire, palesato. Sì, nel senso, è ovvio che è ragionevole pensare che se è passato qualcuno, come dire, faceva parte o comunque che lavorava in comune, io credo, poi che mi smentiscano, io credo che qualcosa in comune sia arrivato, cioè, perché nel senso ci sta, ma è normale, ma ci sta, ma io lo farei con chiunque, cioè nel senso, se io vedo qualcosa che parla appunto di una persona che conosco eccetera, dico ah, hai visto che sto facendo questa cosa, però sai, io di qua di là, cioè nel senso, non per fare, come dire, la spia, ma semplicemente anche per discuterne, per parlarne, per capire capire, magari appunto poi il sindaco dei tali dice ma no, ma sai che cacchio me ne frega, anzi, oppure magari dice sì sì ma guarda sulla coscienza non preoccupa, cioè nel senso è normale che delle interazioni avvengano. Mm-hmm. Quindi tutto questo, quando poi alla fine del murales vengo contattato dalla galleria dicendomi che gli era stato chiesto, perché poi i ragazzi della galleria ovviamente hanno sempre fatto la tramite, mm-hmm, in maniera molto professionale tra me e bene o male le, voglio dire, le, il cantiere o comunque chi poi gestiva il progetto, il cantiere eccetera eccetera, mi fanno sapere il fatto che il disegno non andava bene, che l'opzione era quella o di modificarlo o di cancellarlo e addirittura se non sbaglio fecero l'esempio, non i ragazzi della galleria ovviamente, ma chi chiese questa cosa fece l'esempio, diceva no, ma sai lo scontrino può diventare una bandiera italiana, cioè la presa per il culo, poi dici piuttosto non fare, capito? Cioè vabbè, comunque sorvogliamo su sta cosa e quindi questo fatto è stato un po' la ciliegina sulla torta, una sorta di gocciolina che ha fatto traboccare il vaso, e io alla fine ho detto adesso basta, nel senso, cioè un mese e mezzo è stata sta cosa, tutti l'hanno potuto vedere, nel senso che noi avevamo le chiavi del cantiere per poter ovviamente lavorare anche fino a, cioè io mi fermavo a lavorare fino a mezzanotte eccetera, mm-hmm, anche delle questioni semplicemente dell'inverno, fa freddo, il colore asciuga lentamente, quindi bene o male anche per massimizzare tutta una serie di tempistiche e di questioni, e quindi nel senso, cioè mi sembrava talmente una presa in giro insopportabile che ad un certo punto ho detto ho pensato cosa fare, ho documentato, ho fatto tutte le fotografie del caso di documentazione, perché poi ho detto no, guardate, io non lo né modifico né lo cancello, se volete lo cancellate voi. Ed è stato detto alla galleria, ha detto sì sì va bene, cioè prima dell'inaugurazione, poi cioè comunque è stato fatto capire alla galleria che prima dell'inaugurazione si sarebbe cancellato, perché consegnare una cosa del genere al comune o al sindaco non era ascendente, decoroso, non era accettabile, non era educato, non era quel che è. Però alla fine il messaggio era quello. E ripeto, è stata una cosa molto, come dire, fastidiosa in un certo senso, perché ripeto, non si è intanto non mi è stato detto guarda lo si cancella perché non hai rispettato le consegne, però non hai rispettato le richieste, perché non hai rispettato questo o quest'altro, ma semplicemente perché quello che avevo rappresentato risultava per qualcuno offensivo, e quindi mi si metteva, come dire, in bocca in un certo senso, in mano la responsabilità di aver offeso e di aver, come dire, così buttato tutte le ortiche, magari appunto in maniera così superficiale, offendendo il sindaco piuttosto che non so chi, anche perché poi non c'era nessun tipo di riferimento diretto a nessuno, era riferimento a una, vuol dire, una situazione molto più ampia, sia nel tempo che nello spazio in un certo senso. Mm-hmm. E quindi questa cosa qua mi ha, vuol dire, ho dovuto trovare una soluzione, comunque non ho potuto lasciarla, non ho potuto non dare un'attenzione, e quindi io ho anche questo fatto sapere alla galleria dicendo guardate che va bene, voi lo potete cancellare, benissimo, ma poi io le foto che ho fatto, queste cose saranno pubblicate e dirò che questa cosa è stata cancellata, e dirò che è stata cancellata per questi motivi qui, ok? Poi già da tempo, e sia anche, come dire, per documentarmi leggendo qualche libro del professor Montanari, che è un, come dire, è una persona che stimo molto, ma perché trovo molto in linea anche con le sue posizioni politiche, politiche in senso politiche in maniera più generica, sì. Banalmente è una delle poche persone che prende posizione su, su critica su quello che sta succedendo in Medio Oriente piuttosto che in altre parti del mondo, cioè ha un, credo, almeno è sempre la mia opinione, ha una forma molto complessa di ragionare, e la complessità ha abbandonato, secondo me, da un po' di anni le nostre vite, quindi è una persona che come dire, che stimo, ecco, per quello che dice. Poi ovvio non è che pendo le labbra dello Zamutanari, semplicemente la trovo una persona e ho troppe, come dire, ho pensato che la persona, il professor Montanari fosse la persona più indicata alla quale comunicare e con la quale magari parlare, discutere, avere dei come dire, ricevere dei consigli piuttosto delle opinioni, anche un vaffanculo semplicemente, perché io non è che sapevo, pensavo di come dire, che questa cosa potesse interessargli, cioè potevo anche benissimo scrivergli e ricevere una qualsiasi risposta o addirittura nessuna risposta, quindi e gli scrisi questa mail semplicemente raccontandogli questo che ho appena raccontato, cioè che dicendogli che appunto mi sarebbe piaciuto avere un suo riscontro a riguardo. Okay. Lui mi propose di raccontare questa cosa sulla sua rubrica, come dire, sul Fatto Quotidiano, e tra l'altro mi disse: guarda, avrebbe senso che questo disegno non venisse cancellato, quindi in un certo senso il suo apporto è stato, come dire, positivo, perché poi alla fine, che poi alla fine sembrava quasi una parte dell'etta, però alla fine è piaciuto a tutti magicamente, non c'è stato nessun tipo di no di certo. I fuori di testa erano gli altri, no? Ero io, no? Chi aveva pensato male, però vabbè, si sanno le cose come funzionano, quindi non c'è neanche bisogno di stare lì a commentare troppo. Okay. Ecco, semplicemente questo, non è stato, come dire, non c'è stato né di più né di meno, ecco. Però ecco. Va bene. Mi spiace molto che, per chiudere un po' come si è iniziato, cioè mi spiace molto che ci sia questa sorta veramente di opportunismo falso o di falsità e di opportunismo tagliabile col coltello, che poi ovviamente uno non vede, però percepisce in un certo senso, che poi fa da sfondo purtroppo a molta politica da una parte e dall'altra, e quindi ecco, questo qui forse in un certo senso, non dico che è stato un po' un autogol per certi versi, per chi, come dire, per la politica in generale, perché ovviamente questo fatto qua non interessa a nessuno, però bene o male è l'ennesimo modo di affrontare, di pensare una cosa, di dirne un'altra, di non capire se uno dice una cosa o un'altra, o di aver pensato una cosa, di averne capita un'altra, c'è poca chiarezza. Poi è ovvio che sulla poca chiarezza, come si dice, no, non si costruisce niente, quindi va bene. Niente, io ti ringrazio per tutte queste belle chiacchiere approfondite, quindi concluderei, niente, a parte ringraziarti, ti direi che se ti capitasse mai nella vita di passare un venerdì da Firenze, puoi venire a berti un bicchiere di vino offerto al nostro mercato che facciamo in Piazza Tasso, e poi nulla, no, ti dico una cazzata in conclusione, visto che noi stiamo organizzando tutta una serie di mobilitazioni contro i nuovi OGM che tra un po' l'Europa vorrà approvare, se per caso ti venisse così un'ispirazione artistica, sappi, apprezzeremo molto. No, vabbè, questa è una cavolata. Sì, Ma sì, cioè, nel senso, ripeto, poi ci sentiamo, se avessi bisogno di un disegnino, si fa un disegnino. No, vabbè. No, l'ultima domanda così per curiosità, tu vivi in città o vivi fuori dalla città? No, io vivo in un paese, come dire, di 30.000 abitanti, quindi diciamo non è neanche un quartiere di una città grande, quindi cioè, sono vicino, sono a, diciamo, a 30 chilometri da Milano, quindi ci vado, come dire, faccio il pendolare, ho studiato a Milano, sì. Però sì, ecco, cioè, per certi versi, nel senso, mi interesserebbe anche magari poter, come dire, avere la possibilità di potermi, come dire, concedere un affitto o permettere un affitto in una città del genere, che magari appunto mi può dare, cioè, che mi dà lavoro in un certo senso, ma no, appunto non posso. Non posso, ma nella maniera più, come dire, non posso. E però ci sta, nel senso, è una mia decisione, quindi, però ecco, un po' triste a volte pensare che non ho detto, forse si sta anche meglio, in un certo senso. Sì, sai, noi siamo del lato che, diciamo, scappiamo dalle città il più possibile. No, poi diciamo che molto probabilmente uscire 30 km da Firenze si trova un certo tipo di natura che magari uscendo da Milano a parte, sì, forse sì, effettivamente, dalle montagne eccetera, però sì, è un po' diverso da una regione di 11-12 mila di abitanti iperindustrializzata, quindi no. Sì, sicuramente non è una bella visione, forse nemmeno la campagna. Sì, c'ha le montagne, per carità, però ecco, se uno vuole farsi una giornata così, poi, e poi ripeto, la cappa di inquinamento, vabbè, è tutta un'altra cosa. Sì. No, vabbè, infatti, va bene, dai, intanto grazie ancora. Sono uscito col tuo sushi proprio sotto la scella. Cartellone lungo tutti i viali, rottura autorizzata da tutti gli assessori. Sono squalidi elettronici, sì, e tutti consigliavano di mangiare sushi. Ma la mia posta pay, il mio Satispay, il libretto della Coop sono vuoti già da mo. Così al supermercato metto la giacca più bella e sto piatto prelibato esce sotto l'ascella. Assomiglia molto a un esperto di pesci, quello che al bancone mi allungherà il sushi. Ma non farò prezioso se non è selezionato, non si guarda in salmone a sashimi donato. Sono usciti col tuo sushi proprio sotto la scella.